50 domande su Gesù. Cos'è il Santo Graal? Che relazioni ha col Santo Calice? La parola Graal etimologicamente viene dal tardo latino gradalis o gratalis, che deriva dal latino classico crater, vaso. Nei libri di cavalleria del Medioevo è denominato Santo Graal il recipiente o coppa in cui Gesù consacrò il vino nell'ultima cena e che poi Giuseppe d'Arimatea utilizzò per raccogliere il sangue e l'acqua rimasti dopo aver lavato il corpo di Gesù. Successivamente, secondo questi libri, Giuseppe portò con sé sia il vaso che il contenuto nelle isole britanniche. Vedasi la domanda chi fu Giuseppe d'Arimatea? E fondò una comunità di custodi della reliquia che più tardi si sarebbe unita ai Templari. Questa leggenda è probabile che sia nata nel paese del Galles, ispirandosi a fonti antiche latinizzate, come potrebbero essere gli Atti di Pilato, un'opera apocrifa del V secolo, con la saga celtica di Perceval o Parsifal, legata al ciclo di Re Artù e sviluppata in opere come Le Conte Graal de Chrétien de Troyes, Percival di Wolfram von Eschenbach o Le Mort d'Arthur di Thomas Malory, la leggenda si arricchisce e diffonde. Il Graal si converte in una pietra preziosa che, curata per un certo tempo da angeli, fu affidata in custodia ai cavalieri dell'Ordine del Santo Graal e al suo capo, il Re del Graal. Tutti gli anni, il Venerdì Santo, scende una colomba dal cielo e, dopo aver deposto un dono sulla pietra, rinnova la sua virtù e la sua forza misteriosa, che comunica una perpetua gioventù e può saziare qualsiasi desiderio di mangiare e bere. Di tanto in tanto, alcune iscrizioni sulla pietra rivelano quelli che sono chiamati alla beatitudine eterna nella città del Graal, in Mont Sauvage. Questa leggenda, per la sua tematica, è legata al calice che utilizzò Gesù nell'ultima cena e sul quale esistono varie tradizioni antiche. Fondamentalmente sono tre. La più antica è del VII secolo, secondo la quale un pellegrino anglosassone afferma di avere visto e toccato nella chiesa del Santo Sepolcro di Gerusalemme il calice che impiegò Gesù. Era d'argento e aveva ben evidenti due manici. Una seconda tradizione dice che questo calice si conserva nella cattedrale di San Lorenzo a Genova. Si chiama il Santo Catino. È un cristallo verde simile a un piatto che sarebbe stato portato a Genova dai crociati nel XII secolo. Secondo una terza tradizione, il calice dell'ultima cena è quello che si conserva nella cattedrale di Valencia, in Spagna, e si venera come il Santo Calice. Si tratta di una coppa di calcedonio di colore molto scuro che sarebbe stata portata da San Pietro a Roma e utilizzata lì dai suoi successori fino al III secolo e, a seguito delle persecuzioni, è stata affidata alla custodia di San Lorenzo, che lo portò a Huesca. Dopo essere stata in diversi luoghi dell'Aragona, la coppa sarebbe stata portata a Valencia nel XV secolo.